Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti i radioascoltatori. Ebbene, per iniziare questa trasmissione vi voglio leggere una nota d'agenzia del 13 ottobre. Germania, sequestrato formaggio Asiago contraffatto alla fiera Anuga di Colonia. Bene, la contraffazione, il taroccamento dei prodotti ormai sono all'ordine del giorno e chi ci va di mezzo è sempre l'Italia, l'agroalimentare italiano che è il più contraffatto al mondo. Addirittura attraverso quel fenomeno che si chiama Italian Sounding sembra che le esportazioni, i quantitativi delle esportazioni italiane negli Stati Uniti, per quanto riguarda appunto i prodotti contraffatti, bisognerebbe moltiplicarli per 10 in quel paese. Tant'è vero che io un paio d'anni fa feci una ricerca in alcuni negozi americani e trovai 22 formaggi italiani contraffatti, formaggi venduti in America, prodotti in America, contraffatti con il prodotto, con il nome italiano di formaggi molto noti, ma si potrebbe continuare anche sui salumi, si potrebbe andare su tanti altri prodotti per poi vedere anche la contraffazione nel mercato interno che è enorme. Quindi di questo parleremo in questa trasmissione. Quindi chi volesse intervenire, perché uno dei problemi è anche questo: i prodotti taroccati sono un danno per i produttori o anche per il consumatore, e soprattutto per il consumatore? Quindi numero verde 800 24 00 024, messaggi SMS 349-238-6666, ma anche su Facebook Gastronauta e sul sito Gastronauta potete intervenire per discutere di questo argomento. E allora io però voglio iniziare da una nota così, chiamiamola anche curiosa, dalla parola tarocco, taroccare, perché così a prima vista uno può pensare alle carte, quelle dei tarocchi, al gioco dei tarocchi, ma perché si è trasformata nel prodotto e da cosa deriva l'origine di questo, di questa parola? E allora io faccio intervenire Cecilia Robustelli, che di solito interviene con noi molto spesso, docente di linguistica italiana all'Università di Modena e collaboratrice dell'Accademia della Crusta. Buongiorno Cecilia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Cosa mi racconti su questo termine? Ma guarda, è un termine molto interessante e dall'etimologia, cioè il significato, la storia della parola non è chiarissima e non è stata descritta. Io ti posso dire però quella che può essere la traccia. Innanzitutto credo che dobbiamo distinguere tra taroccare, nel senso di falsificare, quindi il prodotto taroccato, e l'arancia tarocco, che ha questo nome e che si potrebbero magari avvicinare, però francamente i ponti non sono molto saldi. Quindi fermiamoci su taroccare. Taroccare è una parola che esiste dall'italiano del 500, solo che aveva un significato, il verbo taroccare, soprattutto di gridare, adirarsi, arrabbiarsi. E però in un vocabolario dell'Ottocento si trova questo significato. Si dice taroccare quando qualcuno che gioca a carte, ai tarocchi, non ha il seme giusto e quindi deve mandare un'altra carta. Perché il gioco dei tarocchi, nel quale noi pensiamo soltanto per la divinazione, no? Leggere le carte e così via, in realtà è un gioco vero e proprio e consta di un numero di carte che si chiama tarocchi e di un numero di carte con i semi, denari, bastoni, eccetera. Adesso io do le regole in modo molto, molto semplice, certo. Quindi chi gioca ai tarocchi mi scuserà. Durante questo gioco il tarocco era la carta che batteva il seme, ma se uno non aveva la carta del seme giusto, cioè del seme con il quale doveva rispondere, poteva lanciare un tarocco. Quindi si può pensare che dare un tarocco voglia dire dare qualcosa al posto di un'altra cosa. Ah bene, quindi è chiaro. Quindi si legherebbe al gioco dei tarocchi. Grazie, io ti ringrazio Cecilia, sei sempre bravissima su trovare le parole del cibo. Bene, abbiamo con noi Francesco Panella, che è presidente dell'UNAPI, Unione Nazionale Associazione Apicoltori Italiani, e apicoltore lui stesso. Buongiorno Panella. Bentrovato Paolini, buongiorno ai suoi ascoltatori. Senta Panella, l'altro giorno ho letto su un quotidiano che un barattolo di miele su 10 contiene prodotto che arriva dalla Cina spacciato per prodotto italiano, è vero? Ma è vero sì, c'è da dire che viviamo un momento particolare diverso da altri prodotti agricoli. C'è una grande incremento della richiesta di perché c'è più gente che per fortuna mangia nel mondo e quindi chiede anche miele e nonostante le performance di paesi emergenti, a causa di OGM che distruggono la biodiversità vegetale e a causa di nuovi insetticidi, la produzione mondiale, nonostante grandissimi investimenti, non cresce. Quindi c'è un corso mondiale del miele che è sostenuto, molto sostenuto, e in questo corso mondiale si inserisce una cosa che è forse un po' peggio del tarocco, ed è l'adulterazione, e cioè dall'Asia si procede a adulterare a furia e a misura. Se vuole le spiego come. No, beh, questo è un parlare tecnico, beh, però le chiedo questo, come deve fare un consumatore per difendersi da questo? Il danno colossale è proprio che questo miele, con l'aggiunta di zuccheri pastorizzato, a cui viene tolto tutto ciò che è vitale con un'ultrafiltrazione, quando poi lo compri sul mercato guardando solo il prezzo, la volta dopo il consumatore si rivolge ad altri dolcificanti perché incontra un prodotto di qualità organolettica inaccettabile. Ecco, cosa deve fare il consumatore? Due cose deve fare il consumatore. Non guardare solo il prezzo e guardare l'origine. Questo vale dappertutto, vale ancora di più nel miele, perché il 40% del miele che consumiamo in Europa viene da questo tipo di fornitori asiatici, e perché la Coldiretti l'ha segnalato recentemente, anche in Italia, sfortunatamente, che è un mercato di eccellenza anche per il miele, c'è un grande incremento dell'importazione di miele cinese nell'ultimo semestre. Una cosa importante è quello che io consiglio è acquistate sempre il prodotto che ha il coraggio di indicare la sua carta d'identità e se è possibile acquistate quello dei posti che amate, perché contribuite così a salvare la qualità ambientale di quei posti, perché contribuite all'impollinazione dei posti che amate. Bene, grazie Panella. Qui abbiamo un altro caso, cioè abbiamo oltre che il taroccamento, qui abbiamo la sofisticazione e l'adulterazione, che sono addirittura degli eventi ancora più gravi. Ricordo il numero verde 800 24 00 24. Sentiamo Aurelio da Bari. Buongiorno Aurelio. Buongiorno dottor Paolini. C'è un sistema molto semplice per evitare che la contraffazione dilaghi in tutti i paesi in cui i nostri prodotti vengono esportati. Allora, un ente consorziato tra tutti i produttori di prodotti agroalimentari devono creare questo organismo attraverso il quale qualsiasi prodotto venga esportato, da questo organismo deve essere emanata una certificazione con il numero, per la quantità che viene esportata, in qualunque luogo, in qualunque paese, debba essere poi questo certificato unito alla quantità esportata in qualsiasi paese, in modo che in quei paesi devono essere tutelati, oltre che i nostri prodotti, anche i consumatori di quei paesi, in maniera tale che questo organismo deve... Bene, abbiamo capito Aurelio, diventa molto, molto complicato, i controlli ci sono già anche tutta una serie di normative, purtroppo vedo anche da una serie di sms che mi sono arrivati che addirittura parlano, abbiamo mangiato una mozzarella taroccata italiana in Portogallo, un altro che mi dice che bisogna far registrare i brevetti prima, appunto, che ne so, della come dell'inizio della comunità europea, la pizza in primis, e devo dire che non è così, non sembra così facile, perché bisogna anche ricordare che al di fuori della comunità europea i marchi DOP, IGP, STG non valgono niente, nel senso che non sono riconosciuti da quei paesi, quindi diciamo diventa molto difficile. Quando invece, come succede con questo formaggio Asiago sequestrato alla fiera di Anuga di Colonia, è sul territorio europeo, allora si possono prendere dei provvedimenti. Ma lo stesso formaggio nel mercato americano, questo formaggio nel mercato americano, diciamo appunto Asiago contraffatto, non si può fare assolutamente niente. Questa è la realtà mondiale di chi ha più forza e quindi di chi in un certo senso impone le proprie regole. Ma andiamo al mercato interno, ora andiamo appunto a parlare anche di taroccamento italiano, perché diciamo che queste manovre così furbastre non sono solamente di produttori esteri con i produttori italiani, anche se voglio sottolineare che la più delle volte, quando si vanno a vedere i prodotti taroccati italiani in giro per il mondo, sono quasi sempre produttori italiani, magari che vivono in quei paesi che procedono al taroccamento. Quindi dobbiamo fare molto il mea culpa e non accusare sempre ciò che succede all'estero. Però ora sentiamo il taroccamento del Lardo di Colonnata. Buongiorno a Fausto Guadagni, produttore di vero Lardo di Colonnata. Caro Fausto, c'è ancora molto taroccamento del vostro prodotto in giro per l'Italia? Insomma, ce n'è sempre abbastanza, però diciamo che ormai sono tre lustri di esperienza fra cause legali, consulenze, eccetera, eccetera. Cioè, veramente, o si ha un consorzio potente, come tu hai fatto riferimento, diciamo, della fiera di Anuga, dove sono stati sequestrati diciamo quantitativi di formaggio, eccetera eccetera, oppure diciamo è molto difficile togliere il ragno dal buco. E una soluzione che mi è venuta in mente, diciamo, appunto con questi travagli che diciamo deludono prima di tutto il produttore, poi di conseguenza anche i consumatori, è un suggerimento che farei proprio alle istituzioni italiane, perché come tu dicevi, diciamo, questa frode, questa adulterazione, eccetera eccetera, la commettono dei produttori. Dei produttori hanno dei nomi e dei cognomi, hanno delle autorizzazioni, diciamo, amministrative, sanitarie e quant'altro. Io suggerirei, diciamo, proprio un'etichetta appunti. Un'etichetta appunti. Come la patente? Come la patente? Con la patente, diciamo, che tu sei obbligato a segnalare in etichetta un puntino rosso, due puntini rossi, in base, diciamo, alle infrazioni che ti sono state rilevate, e di modo che il produttore, diciamo, senza parlare con il commerciante, senza, perché diciamo nessuno ha più voglia di parlare di queste cose, diciamo è proprio fiato sprecato. Senti Fausto, allora voglio chiederti un dato brutale per capire quant'è la produzione di Lardo di Colonnata vero, cioè ecco più o meno in quintali. La produzione in quintali più o meno certificata sarà intorno poco meno di 2000 quintali, 1800. Ecco, quante ne avete? Voi avete fatto dei calcoli più o meno quanto ce n'è più o meno in giro per l'Italia? Ma dicendo, perché in Italia, diciamo, le vostre trasmissioni, giornali, eccetera, eccetera, diciamo, hanno un po' rallentato questa cosa, diciamo il consumatore in qualche modo quando vede Lardo di Colonnata è già più o meno informato, ha già sentito tante storie eccetera eccetera, ma questa frode ora si sta spostando praticamente sull'estero, si sta spostando in Germania, si sta spostando in Inghilterra, si sta spostando in Francia, si sta spostando in Svizzera, diciamo tutti quei mercati dove il prodotto, diciamo, ha una certa curatura, diciamo, cioè si vende in sostanza, se non si vendesse non ci sarebbe frode. Bene, grazie a Fausto Guadagni, produttore del Lardo di Colonnata, sentiamo Luigi dalla provincia di Bari, un radioascoltatore, buongiorno Luigi. Buongiorno Davide, sì. Ti senti? Sì, ti sento. Niente, io ho chiamato perché volevo ricordarvi una cosa molto importante riguardo il taroccamento. Non dimenticatevi dell'olio extravergine di oliva, Sì, ma questa è una sofisticazione, adulterazione non è sul nome, quindi cioè è diverso sul marchio. Tarocco, una bottiglia trovi olio extravergine d'oliva, tarocco è, sì. Anche il larbri colonnato non è sofisticazione, ma tarocco lo stesso, è un prodotto diverso. Ci sono, attenzione, tra contraffazione, sofisticazione e adulterazione ci sono dei processi ben precisi. L'abbiamo denunciato più volte, quello che tu dici dell'olio, appunto, che non è extravergine, che ha dentro oli provenienti da altri paesi e via di seguito, però questo siamo sull'adulterazione. Comunque hai ragione, cioè l'olio extravergine è sicuramente uno dei prodotti che deve essere sempre tenuto in grande considerazione, bisogna sempre guardare l'etichetta, informarsi da dove proviene, perché è vero, c'è un grande commercio abusivo, un grande commercio contraffatto appunto di questo olio. Grazie Luigi, so che sei un ottimo produttore di olio e fai la tua battaglia, grazie sempre di intervenire. Sentiamo Rinaldo dalla provincia di Teramo, buongiorno Rinaldo. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, io volevo mettere in evidenza un particolare, faccio riferimento alla signora che all'inizio ha parlato e ha spiegato che il vero significato del taroccamento, io do una cosa in cambio ne ricevo una diversa da quello che è, questo è lo scambio, quindi chi fa lo scambio, chi immette sul mercato, allora chi immette sul mercato ha delle grandi responsabilità. Se immette sul mercato un prodotto, diciamo così, taroccato, perché è un formaggio di zero qualità, però lo contrassegna con parmigiano reggiano o quello che sia, lui ha commesso una grande anomalia. Quindi ha cercato di rubare, ha cercato di fregare il mercato che è così delicato. Beh. L'alimentazione, il buon senso, la cultura. Lui non deve stare più sul mercato. Bene, ora abbiamo con noi Nicola Cesare Baldrighi, che è presidente del consorzio per la tutela, sottolineo, del formaggio Grana Padano. Buongiorno Baldrighi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Bene, ultimamente il consorzio ha alzato molto la voce, denunciando molte contraffazioni e denunciando anche diciamo tutta una serie di importazioni dall'est Europa. Allora, come stanno le cose, Baldrighi? Beh, in realtà questo è uno dei nostri compiti principali, quello di promuovere il prodotto e di tutelarlo dalle contraffazioni, dalle imitazioni, dai tentativi che vengono spesso fatti di far passare per il Grana Padano un prodotto che in realtà è fatto fuori zona con dei criteri che noi non conosciamo, che il consumatore non può conoscere. Ecco, quando lei dice fatto passare, cioè viene marchiato come Grana Padano? Beh, diciamo che ci sono, raramente succede che venga marchiato con Grana Padano, perché in quel caso si tratta di una frode vera e propria, però molto spesso per il consumatore non è facile distinguere il prodotto autentico dalle imitazioni e il nostro compito quindi è duplice, perseguire le frodi quando avvengono e anche portare avanti questo faticoso e importante processo di educazione nei confronti dei consumatori che sappiano scegliere i prodotti autentici. Ecco, abbiamo con noi Roberto Brazzale, che è presidente del gruppo Brazzale e membro del Forum per il miglior funzionamento della catena alimentare della Commissione Europea. Dunque, questa è la sua azienda, produce un prodotto che si chiama Gran Moravia. Gran Moravia, dove si dichiara che viene prodotto appunto in questo paese, cioè in questo territorio della Moravia, con latte prodotto là e quindi però immesso sul mercato italiano con questo marchio. Io chiedo a Roberto Brazzale, lei pensa di essere un taroccatore, Brazzale? Ma in nessun modo. Saluto l'amico Cesare Baldrighi, presidente del consorzio, di cui noi siamo soci dall'anno della fondazione e siamo anche produttori da allora. Avete ben detto prima, c'è il rischio di confusione qui sui termini, però vorrei focalizzare su un punto. Taroccato significa dare una cosa per l'altra, significa aliud pro aglio, significa frode. Questa è una condotta che deve assolutamente essere punita, ovviamente nei limiti in cui gli ordinamenti giuridici ce lo consentono. In Italia e in Europa ciò avviene in modo direi pieno, come hanno dimostrato i recenti sequestri di Colonia. Purtroppo fuori dall'Europa le cose si fanno più difficili. Certo. Però io le devo dire anche che, per mia esperienza ormai di tanti anni, devo dire che i consorzi e le autorità riescono a far rispettare molto bene, almeno nei territori in cui ciò è possibile. Se mi permette, vorrei aggiungere una cosa però. C'è un ambito oltre il quale si versa nell'illecito, e questo è l'ambito del taroccato, del sofisticato e così via, e tanto più del contraffatto. All'interno di questo ambito le leggi e i regolamenti delineano un campo nel quale la concorrenza deve poter svolgersi liberamente nell'interesse del consumatore, e in questo senso talvolta mi sembra che si faccia un po' di confusione, quasi finendo per ritenere che il mondo delle DOP esaurisca le possibili possibilità di produzione di un determinato prodotto che deriva da una tradizione. In realtà tutti i prodotti tradizionali sono frutto di un'evoluzione, e i produttori producono prodotti tradizionali tipici che vogliono godere della denominazione di origine tipica, possono avere questi consorzi ed in questo modo possono utilizzare, rispettando dei disciplinari, questa denominazione che è protetta. Ecco, al di fuori di questa, però è libera la produzione al di fuori di questi consorzi, è libera nell'interesse del consumatore, perché fuori dai consorzi è possibile continuare l'evoluzione della tradizione nell'interesse del consumatore. Ciò abbiamo fatto noi, per esempio, realizzando parallelamente alla nostra attività di produttori di formaggi tipici DOP, anche realizzando una filiera innovativa che va oltre i disciplinari DOP e continua l'evoluzione della tradizione che ci è stata tramandata da otto generazioni. Rimanga con noi Bersaglio Baldrighi, sentiamo Rocco da Milano, radioascoltatore. Buongiorno Rocco. Sì, buongiorno. Mi dica. Volevo dire, io sono di ritorno da Colonia, dalla fiera dell'alimentazione. Sì. È la prima volta che partecipo a una fiera dell'alimentazione, è interessantissima, una delle più grandi del mondo. Mi sono reso conto che in vari settori si adoperano essenze chimiche, che si va dall'essenza del culatello, all'essenza del tartufo, all'essenza dei prosciutti, che adulterano i prodotti, che alla fine danno un gusto, un aroma, un profumo, una parvenza, qualche volta anche un colore, che di fatto danno un risultato finale gustativo e visibile completamente diverso da quello che dovrebbe essere in natura. Bene. E lei dice, appunto, qui siamo sul caso della sofisticazione, comunque, perché se usano in questo caso degli odori o d'altro, quindi non siamo sul taroccamento di un nome cambiato per un altro. Bene, come dicevo, bisogna fare molta attenzione e distinguere. Baldrighi, lei ha sentito Brazzale? Certamente, l'ho sentito attentamente. Beh, devo dire questo, che nessuno mette in discussione la legittimità di produrre dei formaggi generici secondo quello che uno ritiene il processo industriale più consono. Quello sul quale noi insistiamo è che bisogna fare però un'attenta distinzione tra il prodotto DOP e tradizionale, perché la tradizionalità sta in capo ai prodotti DOP, che poi fuori dall'Italia possono venire delle scoppiazzature nel processo produttivo o nel prodotto, questo purché uno lo chiami col suo nome è perfettamente legittimo. Noi insistiamo sul fatto che la tradizione, l'autenticità del prodotto è quello originale, quello che ha il marchio DOP, e che non deve essere in nessun modo confuso nella comunicazione con l'altro prodotto. Ci deve essere per entrambi, ognuno dei prodotti deve fare la propria strada in modo perfettamente legittimo, ma evitando di indurre in confusione il consumatore. Purtroppo questo non è sempre chiaro. Certo. Bersaglio, ma il latte prodotto in Moravia, diciamo con le condizioni, ma sono migliori o peggiori dell'Italia? Beh, è una domanda alla quale lei mi permette di non rispondere per non suscitare magari l'antipatia dei nostri fornitori di latte italiani. Diciamo che sicuramente è un latte di altissima qualità. La tradizione zootecnica della Moravia è antichissima, la qualità della genetica del bestiame è di altissimo livello, soprattutto per la produzione casearia, perché la proteina è molto ricca, il bestiame è poco spinto, per cui fa meno latte ma molto più ricco. La qualità dei foraggi, poi specialmente nella nostra filiera ecosostenibile, è molto una qualità sia sotto l'aspetto organolettico sia sotto l'aspetto della salubrità di altissimo livello, tant'è che riusciamo ad avere un prodotto assolutamente finale, assolutamente esente da inquinamenti di aflatossine, per dirle. Noi sa che abbiamo impostato questa filiera proprio parallelamente al nostro prodotto DOP, proprio per poter dargli delle caratteristiche di ecosostenibilità e per poter anche sviluppare il prodotto con alcune innovazioni, come ad esempio il caglio vegetale, che lo rende adatto alle diete kosher, diete halal e anche alle diete vegetariane. Questo appunto lavorando parallelamente ad una tradizione che è stata fissata dai disciplinari delle DOP, ma che continua la sua evoluzione, come l'ha sempre fatta. È un errore pensare che i prodotti tradizionali tipici si siano mineralizzati in una forma in un determinato momento. No, sono frutto di continua evoluzione. Certo, il certo. Grana Padano tra gli anni 70 e gli anni 90 ha subito dei grandissimi cambiamenti a favore del consumatore, a favore della qualità, a favore della salubrità. Bene, grazie a Braziale, grazie a Baldrighi. Sentiamo Paolo da Roma, un radioascoltatore. Buongiorno, dottor Paolini. Sono Paolo da Roma. Da 40 anni faccio l'export alimentare, volevo intervenire, lei ha esordito parlando del mercato nordamericano, è chiaro che le aziende nordamericane, il loro marketing segue questa prassi, cioè quando sono arrivati a un certo punto nell'importazione, a un certo livello di importazione di un prodotto, cercano di produrlo in loco e quindi dando poi al prodotto un suo profilo chiaramente più vicino possibile italiano, e quindi vogliamo anche considerare tarocco questo. E quindi... Ma no, io considero tarocco i nomi, perché se andiamo a vedere ci sono 22 nomi, ben 22 nomi, quindi cioè questo è il problema di fondo, che quindi un inconsapevole consumatore pensa di comprare prodotto italiano, molte volte anche con la bandierina italiana. E io vorrevo però, a questo punto ci mancano dei dati molto importanti, e allora abbiamo con noi il sottotenente Emanuele Grio, comandante del NAC di Roma, che è il nucleo antifrodi carabinieri, comando carabinieri politiche agricole e alimentari, e a lui chiedo immediatamente: ci dà dei dati sui sequestri per taroccamento o contraffazione, sottotenente? Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Innanzitutto vorrei dire che l'attività di controllo dei nuclei antifrodi carabinieri, che ricordiamo sono a Parma, Roma e Salerno, con competenza a nord, centro e sud Italia, rivolte sia sul fronte interno nazionale, in cui appunto registriamo soprattutto casi di contraffazione dei marchi di qualità, quindi parliamo delle famose DOP, denominazioni di origine protette, delle indicazioni di geografie protette. Ed è proprio in questi giorni un'operazione condotta dal nucleo antifrodi di Salerno che ha sequestrato 24 tonnellate di falso pomodoro San Marzano DOP. Ma soprattutto anche la nostra azione riguarda anche il fronte esterno, dove attraverso appunto un'attenta analisi dei flussi di importazione dei prodotti alimentari ci ha permesso di sequestrare oltre 9.000 litri di olio deodorato proveniente da Spagna e Grecia, venduto nel settore della ristorazione invece come olio extravergine di oliva. Questi ecco. Sono alcuni degli aspetti che trattiamo come Comando Carabinieri Politiche Agricole. Bene, rimanga con noi. Allora sentiamo un radioascoltatore, Alessandro dalla provincia di Vercelli. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Mi dica. Volevo avere un'informazione: come mai quando mi reco nei supermercati, centri commerciali, al banco dei, ad esempio, dei salumi o dei formaggi freschi, raramente trovo indicato il nome del produttore? Questo ci potrebbe evitare anche alcuni tarocchi. Beh, lei lo denunci perché ci dovrebbe essere il nome del produttore, dovrebbe essere scritto, quindi chiami il vigile urbano, chiami chi vuole, faccia una denuncia magari anche ai NAC o ai NAS per fare un controllo. Credo che non ci siano problemi da questo punto di vista, perché ci dovrebbe essere. Bene, abbiamo parlato di diversi prodotti, ma parliamo ora della mozzarella, la mozzarella di bufala campana DOP, perché anche qui ci sono dei taroccamenti non indifferenti. Vero, lo chiedo al Antonio Lucisano. Antonio Lucisano, buongiorno, che è il buongiorno, direttore del consorzio di tutela. Buongiorno. Dunque, noi sì, la nostra problematica è particolarmente complessa perché abbiamo, oltre a quelle già ampiamente dibattute sulla difficoltà di riconoscimento delle DOP nei paesi extraeuropei, noi soffriamo di un problema proprio di ordine semantico sul termine mozzarella che purtroppo è stato diciamo incautamente ritenuto nome comune e da questo scaturiscono una serie di problematiche sia nel mercato interno che in quello estero. Sul mercato interno abbiamo il problema che la denominazione diciamo protetta e quindi tutelata dal nostro consorzio è quella di mozzarella di bufala campana o mozzarella di bufala che è altrettanto protetta, mentre abbiamo una serie di prodotti che non si fregiano del marchio della DOP, del marchio del consorzio e che sono chiamati mozzarella di latte di bufala, mozzarella con latte di bufala, eccetera, che indubbiamente inducono grande confusione nel mercato e che però sono per la legge nazionale diciamo prodotti ammessi. Il problema diventa ancora più grave all'estero dove già in ambito comunitario noi soffriamo della presenza di prodotti che si chiamano mozzarella di bufala perché l'unica denominazione diciamo, che caratterizza la DOP poi finisce per essere campana con tutta una serie di altri problemi quindi di riconoscibilità da parte del consumatore. A questo si aggiunga poi il problema, come dicevate all'inizio, della mancata tutela nei paesi extracomunitari. È un problema che diventa sempre più serio perché la mozzarella di bufala campana continua ad avere dei risultati strepitosi, quindi è un formaggio particolarmente apprezzato, certo, non solo in Italia ma anche all'estero. Abbiamo dei dati sull'export particolarmente incoraggianti nell'ultimo biennio e questo chiaramente aumenta le dimensioni del problema, aumenta la preoccupazione di riuscire a dare al consumatore il prodotto di eccellenza, certo, che è appunto la DOP mozzarella di bufala. Senta Lucisano, mi risulta che ultimamente sia stato sequestrato un grosso quantitativo di latte straniero per la mozzarella di bufala. Sì, ma torniamo al discorso che facevo, cioè non per la mozzarella di bufala DOP, ma per mozzarelle che contengono quantità di latte di bufala diciamo diverse, sono quei prodotti che appunto vengono commercializzati come mozzarella di latte di bufala o mozzarella con latte di bufala. Lei pensi soltanto questo, tanto per entrare nell'ottica del consumatore e dire delle cose semplici, che un prodotto che magari al supermercato viene commercializzato con mozzarella, magari con latte di scritto piccolo e poi bufala scritto grande, ha tra gli ingredienti latte, virgola, latte di bufala. Naturalmente per il consumatore è molto difficile comprendere che quello è un prodotto che contiene, certo, magari il 90% di latte vaccino, chiaro, e il 10% di latte bufalino, quindi complicazioni. Grazie Lucisano, grazie di queste precisazioni. Devo leggere un sms importante perché è di Mariangela Grosoli, vicepresidente del consorzio ABM-IGP, che riguarda l'aceto balsamico. Segnalo il grave momento anche per la tutela del termine balsamico, comune a un IGP e due DOP, attaccata da ben due stati sovrani europei che hanno in corso la registrazione di un generico aceto balsamico. Tutto ciò con un incredibile avallo della Commissione europea. Bene, e se volessimo discutere di questi, di cosa combina la Comunità europea, la Commissione, bene, faremo non solo una ma 100 trasmissioni e ne potremo contare molte di cose così sicuramente fuori luogo. Sentiamo Luciana dalla provincia di Bergamo, buongiorno Luciana. Buongiorno, scusi la voce, io volevo dire il miele, io consumo sempre miele di castagno, quest'anno so che al nord il miele di castagno ce n'è poco, come faccio a sapere che quello che compro è originale, italiano e come diceva o contraffatto? Beh, se guardi che diciamo che un 20 minuti fa intervenuto, esatto, ha spiegato, bisogna leggere l'etichetta, bisogna leggere l'etichetta, credere l'etichetta. Allora, c'è scritto italiano nel mio miele che compro. Non so che dirle, bisogna portarlo all'analisi e non so neppure se l'analisi si riesce a scoprire, non so che dirle su questo. Bene, sentiamo Rede dalla provincia di Monza Brianza, buongiorno Rede. Buongiorno a lei, mi è capitato un fatto curioso che avvalla il suo dubbio sui cinesi italiani, e cioè mi sono recato nella zona del Castelmagno, cioè in comune di Castelmagno, sono andato presso un consorzio a fare i miei acquisti, dopodiché mi faccio indicare un luogo, una trattoria, un ristorante dove mangiare un piatto tipico al Castelmagno e mi fu indicato un luogo lì in prossimità era una trattoria molto semplice, e chiesi appunto i gnocchi a Castelmagno. Con il calore, lei sa, pregi e difetti si moltiplicano, e un difetto eccezionale. Perché scendo al consorzio dico: ma lei mi ha indicato, ah, ma sa, il Castelmagno costa, a loro diamo il magnum. Cioè, non ce la caviamo più così. Se chi è preposto, certo, a difendere l'immagine è il primo. Sembra di vedere il federale, uno portava gli ordini, l'altro i controordini. Grazie. Non potevamo più vincere la guerra. Grazie Rede, sentiamo la musichetta che dice che è finita. Bene, allora grazie a tutti gli intervenuti, e io vi do appuntamento con la pillola alle 11.05 e alle 23.05. Un caro saluto da Davide Paolini.